lo nome manu misu de iudeo, per chi rispietum puortu a nessuno, manca la carne e ne allo sangue meu. Nemici tieni assai per su paese, amici non ne cerco e non de voglio, e chi ne tocca a mia ce fa le spese. Casogno sembra allerta per cantare, ogni parola è più una cortellata, cano spregio assa a sangue salassari. Ca io a una sola cosa trovo sfizi, ca divenino forti terremoto, o puramento io arno do iudizio. Di poveri non tiegno compassioni, di ricchi nisci per ali costuna, ecco le santo un tiegno devozioni. Nemico di governi vecchi e nuovi, sono stato sberro della polizia, e tu e tu attacchi invece tuovi. Dentro le fiamme dello paradiso, e quello pendimento gli stimare. Volera vede io dice in galera, e tribunale diventa cantina, e codici vinno vinno dentro la fera. Volera cammutassero i potenti, e a strada annettassero con la lingua, davanti occhio strazzo, strazzone dei pezienti. Franco Paolo Perreca.